Roma Trastevere, 1 aprile 1970. Care Eleuterio, il cortiletto che un tempo fu pieno del mio vociare argentino di bimba, oggi è colmo dei miei singhiozzi di donna disincantata. Da non so dove mi arriva la voce di Sandy Shaw che canta. E io penso che Sandy Shaw è la ruspante della musica leggera. Penso anche che sei un cretino, Eleuterio. Non si litiga con la propria moglie per una teiera che rovesciandosi bagna un po' di carta. Sempre tua. Roma Parioli, 2 aprile 1970. Cara sempre mia, il cortiletto che una volta fu pieno del tuo vociare argentino e che oggi è colmo dei tuoi singhiozzi è un cortile fortunato. Se io fossi lì, si riempirebbe anche del mio frasario pittoresco e inequivocabile, il che sarebbe duro anche per un cortile di Trastevere. Per una teiera che si rovescia bagnando un po' di carta, non si litiga. Ma per una teiera volutamente rovesciata su quasi tutti i fogli di una mia faticosa relazione, manoscritta a pennarello e ora indecifrabile, si litiga. Ciao! Ho scritto. Leggo sul giornale che il livello del Tevere è sensibilmente aumentato. Di' a tua madre che smetta di immergersi nel fiume, Eleuterio. Roma Trastevere, 3 aprile 1970. Caro Eleuterio, gattaccio! Per coerenza ti lascio tra i felini domestici, ma con disprezzo e anche con un certo senso di ribrezzo per via che ti immagino secco e semi arrabbiato. Mammina si è un po' offesa quando ha letto la faccenda del Tevere, ma per non dire cose, poverina, si è messa un piccione arrosto in bocca e lo ha masticato controvoglia. Alla finestra vedo la reclame di un film di Tati. Io penso che Tati non è che un attore che ama recitare con l'audio spento. Mi dispiace per la relazione che dovrai rifare. Non era mia intenzione rovinartela. Io con la teiera avevo mirato al viso, ma si può anche sbagliare, no? Sempre tua. Roma Parioli, 4 aprile 1970. Interminabile sempre mia. La solitudine comincia a pesarmi. I discorsi mi restano dentro, perché parlare con la portinaia o con l'uomo del latte è inutile. Mi capiscono e io non mi diverto. E poi mi fa rabbia avere un vocabolario abbastanza ricco e non poterlo usare. Che me ne faccio delle parole oca, incosciente, pazza, se tu non ci sei? Torna, anche perché credo di essere ammalato. Da qualche giorno soffro di strani gonfiori ai piedi, tanto che le scarpe e le pantofole mi entrano a stento. Ciao. Ho scritto. Non sto male. La portinaia ha svelato il mistero delle scarpe. C'erano dentro i calzini arrotolati. Eleuterio. Roma Parioli, 5 aprile 1970. Caro Eleuterio, micione, sono di nuovo con te, anche se tu non ci sei, perché non sei a casa, ma siccome a casa ci torni sempre, quando ci tornerai ci sarai anche tu e così ci saremo tutti e due. Ho messo un po' d'ordine in giro e ho già preparato la colazione. Roast beef. Io penso che il roast beef è solo un pezzo di arrosto che ha studiato a Cambridge. Penso anche al ridicolo motivo per cui abbiamo litigato l'altro giorno. Tu eri lì che lavoravi e io sono entrata nel tuo studio. Hai permesso, Eleuterio? Uffa, quante volte ti devo ripetere che permesso lo devi dire prima di aprire la porta? Oh, come sei pignolo. Importante che io lo dica. Insomma, lo vuoi capire che quando lavoro non voglio gente in studio? Ma io non sono gente, sono tua moglie. E a chi lo dici? Si può sapere che cosa vuoi? Vorrei un parere, Eleuterio, ma se non mi guardi, il parere non me lo puoi dare. Guardami. Guardarti? Così, su due piedi. Non fare lo stupido, Eleuterio, guardami. Tesoro, anche gli astronauti, che sono uomini forti, prima di ogni lancio fanno un lungo periodo di preparazione. Quindi non puoi pretendere che io così all'improvviso... Caffone, guardami e dammi un parere. D'accordo, e poi non dire che sono un uomo che non si sacrifica per la famiglia. Ti guardo. No. Chi è lei? Cosa vuole in casa mia? E perché non si è fatta annunciare? Eleuterio, non fare lo spiritoso! Come sto? Come stai tu non lo so, io sto malissimo, soffro di cuore. E vedermi davanti improvvisamente un essere umano che sembra nato dal connubio fra Antoine e Dalida non mi ha fatto bene. Eleuterio, non fare lo stupido, sono io! Giuralo! Lo giuro! D'accordo, ma cosa hai combinato? Sono stata da Felipe a farmi pettinare. Questa acconciatura si chiama pioggia d'estate. Per me è diluvio universale. E perché mai ti saresti travestita così? Eleuterio, a parte il fatto che non mi sono travestita, mi sono fatta pettinare perché oggi c'è festa in casa di mammina. Le abitazioni delle locomotive non si chiamano case, ma depositi. Eleuterio, non cominciare! E perché c'è festa nel deposito di tua madre? Perché è il suo compleanno, Eleuterio. Pensi tu a ordinarla tutta. Guarda che sia almeno di 2 metri quadrati, sennò non sapremo dove mettere le candeline. Eleuterio! E uscendo, non passare accanto al chiosco delle bibite. Il padrone ti potrebbe scambiare per una noce di cocco allo stato naturale. Eleuterio, mi hai seccato. Io me ne vado, non ti sopporto. Dammi le 30.000 lire che ho speso da Felipe e non guardarmi più in faccia. Guardarti in faccia? Ma non sono mica un kamikaze. E 30.000 lire te le sogni? Mi servono, Eleuterio. Le ho anticipate io con i soldi delle spese mensili che mi hai dato tu. Arrangiati. Ridammi i miei soldi. No. Guarda che faccio uno scandalo, Eleuterio. Dammi le 30.000 lire e i soldi per il regalo di mammina. No. Oddio, Eleuterio, io non so che cosa ti farei, anzi... No, anzi, lo so. Tieni! No! Il testo di mio tavolo! Guarda che disastro! È scritto a pennarello, il pennarello stinge, ma adesso ti aggiusto io, arpia! No, arpia. Fermo! Se mi tocchi faccio correre tutto il palazzo! Fai correre chi vuoi, quando arriveranno ti avrò già presa e avrò fatto di te... Aiuto! Eleuterio, buono! No! Ricordo tutto perfettamente, ma quando ritornerai farò come se nulla fosse accaduto. Ciao. Se non hai niente in contrario, oggi pomeriggio andrei da Felipe a farmi pettinare. No, non voglio soldi, caro. Anticipo io, poi tu magari, eh?